Ma buongiorno. Oramai c'è una scena, Antonella, tutto bene? Sembrava che c'avevi roba sotto. No, avevo messo l'audio del microfono a zero, capito? Adesso c'è i toni alti. E adesso va benissimo, adesso ti ascolto bene, anche il segnale è buono. 9:10 Radio Super 5, va bene. Per non fare casini, capito? Da te la fine. vicino, agganciarglielo al, come si chiama, come l'avevo fatto una volta. Poi c'è entrare in capolento è un togliaio, devo fare un sacco di casino, non mangiare sulla gara. Non c'è neanche posto in cucina, capito? Si guasterebbe subito là, il baracchino. Quando si mette a friggere oppure a fare la pasta, eccetera, eccetera, con l'umidità che crea, già lo sai, la cucina, la parete ti va in fumo subito. Quindi a un certo punto, vabbè, quando è per il momento, fino a sete, la sete, dopodiché, già non c'è nessun problema. Me la prendo sottamente di cavo e iniziamo direttamente nel tappo dove scende il capo della TV e così a posto. Quando voglio prendo gli abbraccio la BR17 e parla con quella. Quando le voglio prende il salone e parla con l'antenna grande. Almeno c'era anche lei ed è tranquilla. Eh beh sì, in definitiva andava e fai bene. È una cosa di lusso alla grande, fatta così va benissimo. Se no casi, riesci a vedere qua come cacchio sono messo io, esci qua, vedi. A vedi, ok, bene, mi ascolti, sì. Se non voglio che ti ascolto bene, sei 9 più 20. Sì, cappa, andava bene. Iuia, cosa ci puoi fare, purtroppo è così. Stamattina ho trovato Antonio lì a... C'era il Conte Nuovo, era? Giuseppe, non Antonio. Ma che me l'ha detto? Anche la Natalino mi ce l'ha trovato stamattina. Sì. Vabbè. Tutto a posto. Ma che deve piazzare l'antenna, non so. Devo in pratica scendere giù con l'antenna, sistemarla. E rimetterci la nuova sotto. Poi ritocco il palo dell'acqua. Che pesante, capito? Ci mettiamo un palo telescopico che è più leggero e in modo che ci possa lavorare meglio, perché da lui è un casino, capito? Sì, infatti me l'ha detto, dice che dovevi piazzargli la tua questa antenna, ma è quello di Cantonello e così quando sono pronto la piazza. Il baracchino no, mi pare. Ho venduto ce l'ha detto. No, ciao Giulia, che gli avevo regalato io. Ho sistemato, mi avevo regalato a me, gli ho messo tutto. L'avevo riparato, non funzionava, Gli ho messo i pezzi nuovi e funziona adesso. Giulia, 50-24 c'è. Io ne ho di pezzi di quello, 50-24. È uguale a toccare praticamente, no? 23. Ah, 40 canali, Ah, ho capito, ma qual è quello che c'ha lo smitter digitale? C'ha lo smitter LED come rosso. C'ha lo smitter LED rossi. Ma mi piacciono a me quelle radio, dimmi, io ne ho una della Midland, di quelli, esce bene, è perfetta, però non mi piacciono questi smitter a LED, non mi piace. Sì, vabbè, ma poi già si trova un baracchino di quelli tipo 2009, come ha fatto Giovanna, 90 euro l'ha trovato. Magari qualcuno che non se ne fa niente, capito. E con l'apparecchio lì già si trova a Sassari. Stavano vendendo Superstar, nuovo, 120 euro. Sì, lo so. Giovanna c'ha il 2009, l'ha pagato 90 euro, figurati. Bello, il 2009, ma il modello vecchio? Sì, è il modello vecchio originale. Perché si fa di navato, lascia perdere, sono una porcheria, non servono a niente. Sì, adesso ho avuto problemi, mi sembra Natalino con quel 2009. L'ha difettato, mi sembra che l'aveva. C'era un difetto che non ha più funzionato, si è bruciato, non mi ricordo adesso. PLL è crepato, qui c'è qualche problemi anche. E comunque sia, è così. E ora cosa prende la testa di Vita Vecchia, questa vecchia taballana, Antonella? Se senti qualcosa, sono 240 io, con l'MBP5, qui c'è anche Saletta nel caso. Già esce bene lo stesso. Scende di guardia appena, se no ci esco, mi aspetta che te lo faccio sentire. Mi attacco il cavetto e tu lo senti. Aspetta un secondo. Anche io, ho l'MBG4 io, il Tamer più 3. guarda, se te lo faccio sentire con questa radio come esce? Ecco, questa è saletta, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bambetta, va benissimo. Lo so, spinge parecchio in saletta, molto meglio del MP5, già lo so. È attaccato con qua 140, è una bomba. Il 140 c'era un 140, allora un 140 MC, del 140, l'MC60, l'alimentatore è 370 euro. Sì, la sua volta c'era invece 280 e 680, c'era 280 euro con non mi ricordo cosa cavolo c'era in più, da 270 euro mi volevo. Quindi figurati, ci sono le offerte, solo che mancano i soldi, capito? A un certo punto penso a Magnà, non penso a Baracchino, per il momento. Quando c'è un soldo in più me lo comprerò, se mi serve, se no già rimane indietro. Ah, cosa ti dico? Che sono dei muletti, non muovimi mai questi radio. Lo so, sono dei freni, sono questi apparecchi qua. Sono belli. Guarda, se avevo avuto soldi l'avrei comprato a Giovanna, quello del 80. Capito? L'avrei preso a lei e... lui aveva comprato l'alimentatore, quello come si deve, da parte aveva fatto la linea completa, l'aveva fatto e sarebbe stata con la linea completa anche lì. Sarebbe uscito un turbo Giovanna a casa sua, con l'MC60 e tutto. Sì, l'MC60 è 280 euro nuovo costa. Certo. Sì, vabbè, non ha giocato a rispendere soldi così. Mi serve roba da mangiare, a me non mi serve Bacchi, il discorso è quello, capito? Una volta si potevano spendere i soldi così, adesso bisogna stare ben attenti quando spendi. Se ti rimangono soldi, li metti da parte per l'ubi che hai, ma se no, da pagare bollette e tutto il resto, non ti rimane nulla, a fine mese, se lo sai anche tu. È tutto aumentato, tanto meno. Poi se esci 100 euro non compri nulla, non è più. Ho speso 50 l'altra volta, non ho comprato un cazzo, non ho comprato, vero sì. La spesa intelligente, la fregatura intelligente, non la spesa intelligente, il discorso è quello lì. Capito? Una volta con 50 euro ti cavello fino a... fino a fuori, gatto, non so l'altro, adesso invece ho cazzo che non vedi il cappello. Ma tu cosa pensi che 50 euro durino molto? Non valgono niente 50 euro. Eurospin, mira, come dicete come te, che Eurospin si risparmia, ma cosa risparmi? Allora la parità di prezzi vai su MD, la cosa la trovo molto più bassa di Eurospin, la carne fa schifo, è quella di Eurospin. Già lo so, no, io la carne la compro da Carrefour, quella che c'ho, quello che c'è qui, capito? Carbonazzi, poi da lì passo all'altro negozio, mi faccio due negozi in pratica, bisogna fare così, bisogna fare il giro dei negozi a Sassari, bisogna uscire in macchina, controllare dove ci sono le offerte, ti fai il giro e ti riempi il carrello, il discorso è quello lì, non è che puoi stare solo un negozio, ti compri per dire il pane costa tot e lo prendi da una parte, tu prendi la carne costa tot, vai in un altro negozio e risparmi. Dalla carne ti serve per dire la frutta, la verdura, la pedola tappata, e così bisogna fare adesso, fare il giro delle sette chiese per poter risparmiare almeno quei 20-30 euro te li risparmi. Lo so, vabbè, comunque ai medici si compra bene, io solito quando vado a comprare, ma lui, capito? C'è tutto, c'è la carne, c'è tutto quello che ti serve. No, intanto ci vado ai medici io, la verità, non sempre, ma già ci vado. Una volta compravo la birra di ai medici, le lattine, quando scendevo da Antonello, ce la prendevamo da casa, pigliavamo la magna, la carne, e ci durava due settimane, figurati, ci ripetevamo, magari due o tre lattine, capito, per uno. Adesso in campagna lì non ci sto più andando, anche perché mi viene ben male, se no, c'è stato tutti i giorni in giro, adesso invece bisogna pensare solo a incassare i soldi e basta, perché no, non si può stare senza fare nulla. La vita è stata troppo cara, il discorso è quello. Quello che capita almeno bisogna fare. In definitiva è così. Io un casino este. Sì, intanto vado là qui a mangiare 10 euro e mi faccio tanto, mangio lì a pranzo, mi la verità. La birra 2 euro, il coso, il limoncello 2 euro, mazzotti 2 euro, e poi mangi primo, secondo, antipasto, eccetera, eccetera. Esci fuori alle 5 di sera a mangiare anche lì, da qui si allena la croce. Ma dov'è? È via Sorso per caso? No, via Arstus, una cosa del genere si chiama. Appena per la prima parte di Luca Flipperemmi, capito? Vicino alla dove c'è il campo di calcetto, via la Teloce. Ah, ecco, io ho capito dove rimane, sì sì, ho capito. Ma è che due euro, dove la pari? È sul posto, bella fresca. Non vuoi dire, ho fatto che andare lì e te la bevi. È bella croccante, come la chiamano certi, ghiacciata. C'è lì, lui, la Heineken, allo stesso prezzo, eccetera, eccetera. E bello ti diverti. Beh, poi trovi amici anche, la gente. Ogni tanto lo puoi fare. Sì, ogni tanto sì. Adesso non è che possa fare molto. Lo sto aspettando, quando poi ce ne danno l'occhi, ci riparo ogni tanto. Andiamo a mangiare. Spero di uscire, ma fa culo, ma almeno non sto a casa. Esco su in giro, capito? Metto d'accordo con mia sorella, con un'amica di mia sorella, e andiamo lì e pranziamo lì, dopodiché alle 5 e andiamo a casa. Beh, facciamo un giro lì per i cinesi, quando usciamo da lì, se c'è qualcosa di bello da comprare, se compra, se no facciamo un giro tanto per passare il tempo. Dentro casa chiusi, capito? Ma dicendo che moto c'hai adesso, Antonio? Ho uno scooter di quello per grande, quello per l'invalido, diciamo. Rosso, di colore rosso. 4 volte. Quale? Lo scarabeo? No, lo scarabeo. Se succede grande, cazzo. Diventa lo scarabeo. C'ha 4 volte, non è a 2, mi. C'è 4 volte, c'è in garage, le batterie costano 120 euro, una costa, cioè le montano a 2 e sono quasi, sono 240 euro di batterie, capito? E sono scooter elettrici, di quelli invalidi. Ah, ho capito, quelli elettrici sono, come quelli che hanno gli invalidi. Esatto, io ho pagato 150 euro, me l'ha dato un amico, me l'ha dato, dice lo vuoi. E tu l'ha, mi dice, guarda, dice, cambiate le batterie perché è la fregola per quel tempo, sono per le batterie al gel, capito? 100 ampere. Ho capito, c'era un amico mio che è invalido qua, quegli scooteri lì. E che autonomia c'hanno? Sì, abbastanza, a voi a casa mi hanno autonomia. C'è appena ne ha uno, cazzo, sembra un treno, cazzo, camminando via Carlo Felice, ragazzi. C'ha il giuviste di Giampiero. Immagina che lui la mattina prende e si mette lì col coso, prende, esce, se ne va tranquillo a, come si chiama, il negozio, si prende la bottiglia di birra, se la beve, con calma, poi prende e sale tranquillo a casa, capito? Antonello come sta? Meglio? Giampiero? Sì, Giampiero, meglio sta. Sì, sta uscendo, quindi ogni tanto esce, oggi no, perché c'è freddo, però quando fa una bella giornata lo trovi giù al bar, va al bar, si beve la birra, poi scende alla piazzetta di Carbonazzi, si fa un giro di lì, potrebbe fare a me, dove sei? Entra nel caffè, prendi la birra d'offerta, c'è la birra luna fuori, poi gli altri me la porto a casa, fa così e fa bene. Quando sta dentro casa, dentro al letto, sdraiato, o non esiste a me, è seduto e sta meglio. mi si rivede un pochettino, la salola. Se non hai fatto bisogna uscire, Antonio, non è che ti puoi andare tu a casa. A parte che ti prende male, stai sempre dentro a casa, bisogna anche uscire, non è che devi stare sempre dentro a casa. Quando non puoi non vici, cosa penso? Ma almeno dico, anche fatto una passeggiata ogni tanto, capito? Perché fa bene uscire. Se fa bene sì, non devo a me. Io già esco parecchie volte, ma a volte ci si vuole che non fa bene e quindi devo stare a casa e mi prende male, capito? Chiuso dentro a casa. C'è proprio voglia di uscire, capito? Per passare l'ora, anche se vado per dire non vado al bar perché la vita costa 3 euro e fruscia, e quindi ce la faccio. Le 15 cazzo, la birra costa da Carrefour in offerta da Tudor, me ne prendo 2 con 3 euro. Quello sì. Allora al bar non mi voglio entrare. Cioè quando lo vedete una bottiglia di birra 2,60 euro, 2-3 euro, 2,50, capito? E anche 3,50 la trovi, non so dove. Da Andrea, se vado da Andrea sotto casa mia 4 euro, l'ho lavorato da 3 anni. Lui sta calando la pappa per aver visto questo periodo. Lui è abituato alla gente selezionata di quelli che vanno a lavorare, capito? Quei ragazzi che vanno a lavorare, si fermano lì, si prendono i drink. La festa è finita ormai. Guarda, 4 euro non è quella di birra, Bulu. Antonio, mi sembra un po' esagerato, eh. E una 33, la esattezza, perché un giorno sono andato io e ho una 33, 4 euro mi ha fatto pagare. Non mi vedi per niente, ho detto 4. Ma neanche se ti ammazzi, arrangiati, certo. Fai un cazzo a me, nella birra sua. Una 33, 4 euro, ma sta scherzando, non esiste. Ma ah, vai, per carità, quelli sono là. Ti stavo dicendo, ma quel circolo dove c'era fa ancora sigaretta, vicino a coso, alla quello di Mario, sempre c'è quello scala di gioca. Sì, Mario c'è sempre, però non ci fa quasi nessuno. È morto quel circolo, capito? L'unico circolo dove c'è la birra 250 è coso, da Nicco, se vuoi andare, c'è la birra fresca, è meno ti siedi, tranquillo, ti non sei coglione di nessuno, passi l'ora. Quindi io ho visto la moglie di Mario una volta, guarda, 3-2 settimane fa mi sa. Sì, ha avuto fortuna, c'è la casa popolare, i soldi del figlio è morto, si hanno diviso qui. Ma quindi già sta bene, non sta mica male. C'erano la pressione entrambi, cosa vuoi di più? Lui più che altro sta in casa mia, la Teloce, e c'è la casa della Teloce, rimane su all'alberghiero, per non annoiarsi, se no lì, se lo metti dentro a casa quello vuole, meno lì passa l'ora, anche se non ci va nessuno, se la piglia in tuo. Qualche casa di birra ce l'ha, capito? Ne ho capito già, vabbè io sono una volta che non lo vedo, prima lo volevo più spesso, vabbè non sono più salito e quelle donne lì, capito Antonio? Prima la volava bene, adesso lui è calato parecchio, è calato, lo sto dicendo, non ci va quasi mai nessuno adesso, dopo quello che gli era successo ha cominciato a calare un bel calato. Insomma parecchio che non ci vado lo stesso, una volta ci andavo sopra, insomma l'ho visto da poco, sono salito con Giovanna una sera per un paio di birre, c'era solo una casa all'inchino, una salverba, una casa d'acqua e una casa di succo di frutto, non c'avevo nient'altro, e ho detto cazzo, a metto butto tra me, così. Non mi pare che andava a caccia pure, no? Andava a caccia, il cinghiale quello. Sì, andava a caccia, insomma, se non ci stia più andando. Me lo ricordo, mi pare che era il circo del bracconiere, così è. Sì, esatto. Ma ti ricordi, andavamo tutti i giorni, era sempre pieno, era, ci andavamo tutti i cibi, ci andavano. Salivo io, salivo Andrea Maricomio, eccetera, eccetera. Prima era sempre pieno, adesso ho calato parecchio. I tempi sono cambiati, capito? Sì, già me lo ricordo, ci trovavamo tutti lì. Ma da me quando vado al circolo, vado per metà del tram, salgo su, scendo giù, faccio il male mio pulito, la ricco, mi bevo una birra, mi siedo, ci sono gli amici che conosco, capito, e passo l'ora. Di solito salgo alle 8:30 delle 9, non di più. E lui apre le 7:30 la sera, capito? Ma in via Purigono dove? Vicino a casa, di quel circolo che c'è, ho capito dove. Via Torino, no, via Purigono. Via Torino, dove c'è la casa prima tu? All'angolo con cosa? Via 4 novembre, continui dritto, c'è la CGL da una parte, gira a parte opposta e c'è via Torino. Fai 50 metri e c'è il circolo lì. Quello del fratello di Giuseppe. Esatto, sì. Ma sempre ce l'ha. Sì, ce l'ha sempre. Ce l'ho anche stamattina, io sono andato stamattina che ho fatto una visita medica e poi sono salito di lì direttamente. Sono bevuto una birra e poi sono andato a casa. Preso il tram, all'1:30 ero qui. Ah, ho capito. E Giuseppe non ci va lì in quel circo? È andato stamattina insieme a me, è andato. Siamo entrati assieme, siamo entrati stamattina. Poi ho trovato Antonello, Taxilello l'ho trovato. Mi ha offerto la birra e poi sono andato via. Perché avevo appuntamento lì a San Pietro per tirarmi una vista medica che avevo fatto. E poi quando sono risalito mi sono bevuto un'altra birra e poi sono entrato a casa. Kappa, sì, ho capito. Allora come vedete quel circolo era chiuso, invece è sempre aperto. Ma poi c'era un altro circolo prima di Fusaro, quello sulla sinistra. Sì, c'è anche quello, dove andava di solito Antonello quando lavorava di Ulzio. Adesso Antonello è in pensione, già lo sai, sì, non c'è più da Fusaro lavorando, è in pensione. Sì, già me l'ho trovato e me l'ha detto che è in pensione, non c'è più. Ma non sta lavorando Fusaro come prima. Vabbè, quello che vende è bene, perché Torino, secondo te, lavorando sta. Cazzo, dove tutti i giorni fuori, seduto, con tutte quelle scatole aperte, per carità. Cazzo, che è un casino, sono negozi, Antonio. Davvero sono andato a prendere le PL, ma per carità, c'è un casino. Chissà come fa a trovare la roba a quello. Già lo so. Era fuori stamattina, verso le 11:30, no, le 11:30 quando sono uscito io. Era fuori fumando da solo. Non c'era neanche un cane. Certo che casino di negozio, cazzo. Ma perché non lo dai in gestione quel negozio? Magari lo fate ritravagliare, lo fanno, lo sistemano, cazzo, non c'è posto di girarti. Lo so, guarda che lo caccio nel sogno, se voleva poteva venire anche qua sotto. Se prendeva i locali di Sonia, che è molto molto più grande di quel negozio dove lui, c'era la parte di su e la parte di giù. Giù faceva il deposito e capito, ci faceva scaricare la roba all'interno, poi se la portava su direttamente facendo le scale e se la metteva nelle come si chiama, e se stava benissimo, a voi li apporto lì. Sì, lo so, però ma deve se non sta lavorando neanche. Ma di che è il suo quel negozio? O in affitto ce l'ha? No, deve essere il suo, e già ce l'hanno con la GBC già. Dove sta mette il bate? Come fa a vivere quello? Boh, non ho capito. Non vende nulla, boh. Non lo so, la verità neanche io. Non so cosa dirti. Ho fatto stare che così. Una volta che vado volevo fuori, saluto. Dico ciao Tony. E mi saluta. Ciao Tony. interrompo di questo perché quando stavo venendo la via 27 mi ha detto 70 euro. Questo qua, secondo come io ho detto me, me l'ha ritiro il prossimo mese, invece poi cazzo ho dovuto pagare una bolletta, io ho detto no, no, come la vostra, mi sono uso della bolletta, cazzo. Sono rimasto due mesi sì, inculato, cazzo, dicembre e gennaio. Spero solo che il 27 paghino. Se no sono inculato davvero. Ma non so cosa dirti. A me mi sembra presa per il culo questa cosa, ma. Non lo so la verità. Io ancora non ho visto nessun messaggio del telefono, voglio arrivare il messaggio intorno al 24. Così c'è scritto su Google. Il 24 dovevo mandare il messaggio per andare a la carta intorno al 26-27 e alle poste. Col numero di codice che ti mandano. Se no dice, se per caso non ti arriva il messaggio di andare allo sito, di andare tramite via le poste, cazzo da me. E quando le dico, c'è la carta riservata a me, questo è il codice fiscale, braccio qui, e mi diceva, ma così. Dovevano mandare un messaggio, un sms, come, prima di tutto, dovevano mandare sms, messaggio con un numero di codice, con quel codice poi dobbiamo andare alle poste e ritirate la carta, capito? Infatti, cioè, è vero, è così. Il 24 dovrebbe essere così, hanno detto, ultimamente. Però il 26 carica, il 27 ti ritira la carta. Non so cosa dite, non so che aggiornate di seguirsi. Vabbè. Speriamo che vada tutto bene, poi a futtidini. Piace di voi stesso. Cata, c'è un freddo stasera allucinante. Sono sceso in campagna, sono salito, ma avevo un freddo. È scesa di nuovo la temperatura comunque. Sì, sì, l'ultimo te stava bene la verità, io sono uscito e stava bene. Non c'era vento, non c'era niente. Adesso magari non. Vabbè, fuori non sono uscito. Però penso che sia scesa la temperatura un po'. È già scesa, è scesa, tranquillo. E da dove va, Antone? È tempo suo, capito? Sì, cazzo, tempo suo, ma tutti i giorni, cazzo. O acqua, o cosa, c'era un vento, o acqua. E da dove va? È tempo suo, purtroppo è così. Rimaniati, quando sono salito a staccare la mano, l'ho attaccata. Il tiranotto l'ho staccata quasi lì. E ho messo in mezzo a passate. Capito? Poi da lì ho sceso giù e poi ci avevo messo la cosa, la. Non è né girata, tipo per 27 anni rimane, senza radiali, a mezz'onda. È stato bella e poi sono sceso dentro a casa. L'ho provata, ho visto che funzionava e l'ho lasciata così. Ma con un caso di vendicazzino. Avete parlato in due, chi è l'altro? Ma si comprende nulla, a me che sono in FM. No, è banda laterale, non è FM. Ah, ma state facendo casino. Chi è? Siamo loro facendo casino, chi è? Ma ecco, mi intendi o non mi intendi? Ma noi ci sentiamo, buonasera. Oh, Zanca. Ehi, Zanca. Allora, Andronda, che ci dice Andronda? Basta lì. Hai detto che andate a pigliarmi una fumogena io, dai, che mi voglio intossicare stasera. Intossicati bello bene, poi ti faccio squillare le refere. Oh, Zanca, ma c'è un raffreddore, cazzo, bravo. Boh, so che ci luce, ma pizzicato bene. Tu hai dormito nudo ieri notte, capito, con le mani in tasca. Nudo ero nudo. Neanche il perizoma non avevo, cazzo. E allora è per quello che ti ha fregato, ho capito. Perché tu esci senza perizoma, boh, non lo so io. Oh, fra, occhio alla farfallina. Mamma mia, non me la metta. Sì, capitina, tu buru. Questo ovviamente. Già ti ha succi subito. Scusami, dai. Io mi sono curato a fallire, Avi, non hai visto, eh? Scattatore, se c'è una cosa, ti vuole arrivare. No, fatti di fatti due. Fatti di fatti due. Ma mica volevo venire qua, ma stiamo scherzando. Ci mancherebbe. Cada, cada. In periodo stavo, questo mi capito che... Vabbè, quello che mi arriva a me è su Facebook, quella cosa allucinante di questa tipa qui, capito? Va nei negozi, in tanga, fa la spesa, e al bar, quello che ti furba, dove sei bella, cazzo? Di quale pubblicità? Mi arrivi un esempio a me, ma io non ci clicco mai sopra. Perché una volta ho cliccato e mi è tratto un virus, non sono riuscito più a toglierlo. Ho dovuto formattare tutto il cellulare. No, non è una pubblicità, no. Si chiama, aspetta che te lo dico subito. È una cosa allucinante questa. Vale posti, capito? Nei supermercati, prende, si fa la spesa. Tutto in tanga, non fa con i tacchi a spillo. Capito? Mettete fuori, poi vabbè, invece di che fare, scritto anche, quindi figurati tu, lavorare in altri, lei, ma lei ha cioè, tutta la faccia del culo, ho visto cazzo entrare dentro, cioè ha fatto bene la foto come lei era tabacchino, che si vedeva cazzo tutto il culo fuori. Ma pagare dai, fa delle schifo, queste cose fanno male, fanno, ci vogliono gli occhiali con le lenti per vedere bene. Certo. E io ce l'ho anche col piedistallo la lente lì, e poco vedo bene. Ah, ta chi c'è il cavallo, che te? Ce la fai tutto. Se muove andiamo. Poi Zanca. Non posso camminare, mi manca di stampella. Ma lo sai, quel monitor si è messo a posto da solo. Vai! Porca puttana rasura. Cioè, adesso quando arriva l'altro, vabbè, lo tengo di scorta. L'ho acceso e funzionava come te prima, poi non l'ho compreso. O c'era umidità, penso. Sì, non lo so io, no. Io pensavo che era partita la scheda video. No, no, funzionava bene, è ritornata alla normalità come era prima. Secondo me c'era umidità, per quello magari, adesso funziona bene, c'è acceso. Chiusi fra. Sì, vabbè, adesso è il momento, quando arrivo tengo di scorta, se nel caso lo dovesse rifare lo cambiamo. Sì, infatti, mi temo da chi suggerito, amico. Sono unico, appuccio. A me ma c'è un badu. Quel portatile lì l'ha cambiata la tastiera. Quella tastiera che c'è tu è nuova. L'avevo fatta arrivare io perché c'aveva dei tasti difettosi. E allora ho preso e gliel'ho fatta cambiare. Quindi sul portatile, vera, la tastiera nuova. È velocissimo, perché l'ho attaccato praticamente alla linea telefonica. Ed è una scheggia. Il suo portatile gli riponi l'SSD al posto dell'hard disk. Mi alza quanto diventa veloce. Lo so. Ma è già veloce così. L'ho attaccata alla linea ed è velocissimo. È una bombetta. E te credo. Cava. E beh, Antone, cosa si? Mandichende? No, stavo guardando il lei. Il puddu che ho messo a cucinare, allora se era pronto pure no, tra quanto d'ora lo spengo, così ho fatto il salto per domani, per non stare a girarmi le balle a cucinare, l'ho venuti alle 9, capito, cucino direttamente adesso, così domani mattina ci ho dato già pronto. Sono andata lì dalla macchina e stamattina ho guidato con Giovanni Stanco di Platamona dal Palazzo Rosa dai Ghibi a Ghibi qualcosa con quell'apparecchio che ho in macchina. Arrivavo a Santiago Nofri, Platamona, amico, se vendi il sugo a Tomè. Dimmi. Ha detto il sugo stai facendo. Ho fatto il polo, cosa il sugo, va. Note pennette al salmone. Allora domani da Giussia alle 6:30 da Gaza. Vabbè. Stanotte pennette al salmone. Sì, mangia le pennette al salmone. Cazzo, mi è giunto un attacco di gusto. Guarda. Un po' di Mamma mia, sono crepato oggi. E domani ti devi dire, sì, e mezzo. Ti devi dire che oggi l'accompagna alla signora, a chi ad andare all'INAM domani a mangiare. Mamma mia, devo andare presto, se no il libro non esce più. Sì, a Rusoga, alle 6:30. La Giudizio, tutti, ne bisogna. Allora manco alle 7 sei mentivi. Vai prima, perché una volta sono andato alle 6:20 e c'era già gente. No, allora Anduruni, lo sabato non è a bici, no? A che domani è sabato? Fra, aperto sarà domani. No, il sabato è chiuso, mi pare. Devi andare lunedì mattina presto. Il sabato non lavorano. E allora Anduruni a Manzano, intanto io sono un bocciove. Cazzo, so che ci duci, guarda, so con tutto raffreddato, mi è venuto questo attacco di guzzi, cazzo, guarda, non dovevo uscire oggi, purtroppo c'avevo una roba da fare e mi ha pizzicato. C'è un po' di gente oggi, un po' di gente malata, un po' di gente cliccata a letto, cliccata, con la doccia, questo tempo qua è un casino, bisogna stare bene riguardato. Devi coprire bene perché è un casino, questa influenza è micidiale. Non so che è micidiale, purtroppo. Cazzo, tu vivi qualcosa, gli usai, come se tu pure eri impegnato. E ha giocato un bel di commissione, quindi sono dovuto uscire, per forza. E mi ha preso proprio stamattina. Cazzo, me ne sono alzato poco fa, a pezzi ero. Porca madre, sono riuscito, sono controllato, era una ma con quattro, messa a due, non tengo acro, dall'otto di Manzano. Sì, già lo so, già lo so. Ma lo sai, quando vai lì non esci più in quei posti, per portare a lì a fare questa visita, un casino. Ma poi sono uscito d'ora, quando sono cudurrato, no? Dopo pranzo sono uscito a pigliarmi a cagliuccio un solo, sono uscito a pigliarmi un solo e mi sono comusato vicino a dove ci vai marudrà anch'io a pigliarmi un po' di soldi, come ci sono cudurrato mi ha crebato pure. Perché lì è l'onfio, è l'onfio, è un casino, A cui seguirono battaglie legate e accuse reciproche. Cosa vuoi che dica? Statene riguardato al caldo, non uscire, non più acqua e più d'aria, state in arrugato, vai, vivi. A che si esce di tutti d'ora, E infatti, che cosa accade secondo te, Marina? Cazzo, sono qui senti oggi una giornata nera. E da buon anzio ragazzo, ero ponendo il caso gli altri, fa cazzo, e sono aiutare in Darino. Cazzo, addirittura. Sì, meno male che non mi sono fatta male, ma varai a dire. Cazzo, di aro. Se vi ricordate... Mi pare che bisogna fare una revisione completa. Sì, no, hai giusto, no. Una revisione, ragazzo. Io mi pare che mi faccio una revisione, ma stessi. Sì, ho fatto tutti gli esami del corso, l'esame del sangue, tutto a posto. Andava, va bene, di urine. Da dove ho fatto anche quello della prostata, tutto a posto, anche quello, perché l'avevo già prevenuta prima, capito? L'avevo già fatta prima la cura. Va bene così. Ogni tanto mi fa addosso, mi ammazza, poi fumo ed è peggio. E io ci so che io non mi attesto. Anziché farmi... Però lui mi ha preso bene. Un altro cazzo. Quindi, in purtroppo, Vanduici, gatto. E non era bene, ne manco freddo oggi, Il problema è quando esci, ma se devi uscire a fare commissioni, praticamente come te vai, per forza devi uscire. Anche io sono uscito, devo fare cosa a posto. A da voi sono cudurrato d'aso, cazzo, tutti i parcheggi pieni, non vedo un luogo a punire la macchina. Altra volta era buon cuore. Cazzo, quando ti riscendi, cazzo, manco male non c'è a paduno. Se no, toccava a punire la cura oggi. Carità, guarda, quel posto io guardo, lo odio. Lì per trovare il parcheggio di Varano, Manzano, Bisso, allora la ciapa, ma da voi c'è fare il biottaggio dei rinnovi, non trovi un buco per mettere la macchina, ed è un casino. Oh, si farà le nuove tutto occupato. Più non hanno pigliato due fili di parcheggi che sono riservati e viene ancora di macqua, va. A chi si pone la macchina anche vi devono venire la multa se non si è autorizzato. Ma cosa è fare il residente? ecco come. Concetta non lo può fare. Bisogna informarsi, a vedere se lo busso vanno a mutetta. Però la macchina non è interessata lì, non lo so se ci può fare. Perché lì ti andrebbe bene a te, capito? Se no sei costretto di lasciarla dove ce l'hai, tutto lì. Se fa parcheggio i libri, chissà via, ne fa giri, se sei fortunato lo trovi, se no fai sempre gli rendi, abbiuso. Su, tutti e due gli affetti bisogno di fronte, chi si sa fare i residenti? Ho capito già, se non c'è il cartellino ti portano via la mano. Stamattina da via Lomberto ci hanno portato via un fuoristrada, un Land Rover. Lo garratrici, perché era parcheggiato sopra i passaggi pedonali. Non si può parcheggiare lì. Si era imbucciato, così impara, ma si paga. Il trasporto era mucca, come ci hanno fatto a me. A me mi si hanno buttato non ben 3 o 4 volte la macchina. E a me ti hanno buttato la mia. E chi si è mandato da secchi? Cazzo! Cazzo la macchina, eppure era qua, cazzo, vero c'era la macchina. Veramente. Solo di lui. Sì, hanno fatto veloci a portarla via. Cazzo. Ma veloci però. Che si dia bastardi. Perché gli hanno attaccato quei rottini, li hanno messo sotto le ruote, l'hanno sollevata e l'hanno portata via, capito? Sì, gli arruso. Fatene veloci, addirittura una la mettono sopra e l'altra la trasportano col con quelle rottine che c'hanno. Dei danazi la sollevano un po' via, anzi dietro, non davanti per esattezza, perché davanti la sollevano. E infatti, davanti la sollevano e dietro la mettono sopra quei carrelli e quindi va. Beh, è pure un manco voce, non l'aveva tenuta manco le voci, avessi. Cosa vuol dire? Cazzo, 3 o 4 voci mi si danno in buttata. Una volta la giubbosse già da me, ero tranquillo. Cazzo, la giudica da una chieda a Rema e mi sono in domenica al momento di andare andano per la macchina. La cosa viene poi sul casello di lavoro in corso, no? Quindi se la portano via se non trovano il proprietario. È così. Da voi 180 euro a ritirarla, anzi 190. Sta aumentando, a me pare avevi pagato 140 euro. 190 euro a ritirarla lì a Coso, a Canica, capito? E se ci metti 2-3 giorni ti fanno pagare il deposito a macchina e paghi pure di più. Già lo so, più ci sta e più ti fanno pagare. A proposito, hai provato quel capo? Sono negativo. Oh, guarda a vedere se funziona, ami. Antonè, ma è quel retisci? No, sono qua. Stavo guardando il telefonino. Quella si chiama Rania di Cicco. Rania con la Y, di Cicco. Queste sono le fotografie che manda su Facebook. Ha già compreso. Vabbè, io mi avevo acceso il coso, il computer, sto guardando le cosette qua, per il resto andavo in uscita. Vabbè, quello sì, vabbè sì, cosa niente. Se mi controllo la posta, avevo arrivato qualcosa in posta elettronica, vediamo un po'. Qualche lavoretto da fare almeno. Incassi qualche soldino. Sì, ancora già lo sai, questo periodo no, è un casino. D'inverno lavori poco e niente con i corsi. Non so, d'estate che si lavora un bel a te. Cucine, frigoriferi, roba del genere. L'inverno proprio, L'inverno è morto. Io mi importante trovare qualcosa da fare. Capito? Qualche frigorifero da sistemare, di casa, roba del genere da caricare, ce ne sono, cioè. Basta metterti su Facebook e ti chiamano, capito? Cioè, se aiuta, ci metti come si chiama, che sei disponibile per fare riparazione per più che voglia. E ti chiamano. Ah, che non conviene più farne. una volta che gli fai il preventivo vai a fare quelle cose, non ne fanno più, perché non conviene più rifarne, ricarico, sostituire i motori, non è più come prima adesso. Anche perché un frigorifero dovete rubargli una gazzata. Sì, vabbè. Ma ci sono anche le cucine, già lo sai, da... c'è quello che c'ha la... la cucina quella che magari perde o c'è da cambiare i pizzi, ma che figo naturalmente ci sono, basta che uno si metta poi lì con col coltello, buca i tubi, hai fatto dritto i suoi buchi i tubi, si rubata davvero da voi, Già lo so, già. E tu pensi che quei frigodometrici una volta che buchi che cosa, l'evaporatore del ripari, o ce lo dirà un po', gli cambi tutto l'evaporatore, se no lo butti via. Però se ti fai il calcolo l'evaporatore costa più del frigorifero, più il gas e roba del genere, se lo comprano nuovo. E io, beh, subito nel circolo già le trovi, già c'è di lavoro. E lo sai che quei circoli c'hanno quei frigoriferi, quelli grandi, come c'hanno la Ricco, dietro di Conte. Che bisogna caricarlo, c'ha quel frigo modello vecchio, ma è cambiato, quindi non è, già c'è di lavoro, ma la vai? Sì, quello sì, sto guardando una rapposta. Controlla, magari ti hanno mandato 780 euro, beh. È sbaglio, gli è solo a pagare la bolletta dell'acqua, era 82 euro, piglia questa è... ho visto 782 euro. Ho detto, ma non è che ti sei sbagliata di moto? Ho detto, c'hai ragione, mi ha detto, dice, ha sbagliato, dice, la macchina. Mi sa che hai sbagliato tutto scrivendo, ho detto. Tu sei tutta esaurita, gli ho detto, che ti do 782 euro di... la bolletta da 82 euro. Vedi che si attacca una lavoro, i dati. Ok, perfetto. Sì, la pagaia viene Natali, la fattura della cosa. E nega, tutto gatto. Il resto tutto morto, non c'è altro, cade guerra, tutto morto. Ciao Franco, buonasera Tofuso. Ciao Tony, buonasera. E a Londra, vatti che sei bisciato, lui ti sono i bisciati. Quando sei dolce compagnia, sì. Fai bene. Chi c'è ruota? Ruota c'è Natalino, poi c'è Antonello Pomponi e basta. E io. E il baracchino chiaramente. Ciao Natalino, ciao Pomponi. Ciao, mi hai sentito, saluto di bella ascoltata. Natalino, avete parlato di due Pomponi. Ho detto io. Magari Pomponio mi ha sovrammodulato perché c'ha il dito veloce. Allora, c'è che lo smetto lui. Niente, ogni tanto già accendo, dai, a vedere chi c'è più o meno. Diciamo a spazzolare. Ma quel gas, guarda che me lo metti.